mi faccio una pippa pensando ad Asia Argento. Mi sveglio in una chiesa cattolica unica. Il sangue tra le pareti, Lady Macbeth, le viene in cielo, Lady. Vedi Macbeth. Sono qua per sempre. Lei mi pensa continuamente. Sono come il papi che è dato al mondo. È questo che vede tutto il sé intorno. Sono un muro rovedipinto Ashanti, splendo diamanti, Twilight dentro un faro shine. Più di Royal estremo nel mio Daytona Rolex number one ganda, che copre cicatrici. Oh yeah, sai perché le vene tagliate non sanno più di me, sanno di vecchie storie che non penso più. Non mi sono tolto la vita, risorto come Gesù. Quello che vedi dentro il mio incanto, nel mio disincanto, un cuore armato contro il demonio. Sono stramonio di paroliere, tremano le suore quando vedono sedere me. Sono come Gesù, medicale. Faccio di musica cieca, crede da cantare. Vedi, non sono solo sale, sono come il sacro per un mafioso, il sale delle male. Ti faccio pagare quello che canti, ti splendo addosso i diamanti che a grazia a me hai. Ti vesti con me, tipo fango di magia. Olè, tipo le Roi Michel Platini. Vedi, questa canzone varrebbe 3-4 platini. Io ho 2 milioni di lire, 2 milioni di ragioni in più per cantare come base emozionale. Mi sono ferma da cantare, ma da teorema per cui io sono il sale di un mare, sono l'oceano tutto, mentre splendo stupendo, mentre sono sesso come l'impressionismo tutto. Cultura di un'ipocrita, di una pippa mentale. Nazismo del cazzo.